Fires, un programma di blues tradizionale contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera alle mie ascoltatrici e ai miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Blues Fires numero 68. Abbiamo la serata piena di particolare blues, veramente molto interessante, diversificato per linguaggi, e abbiamo anche una presenza italiana qualificata insieme a questo blues internazionale, che parte subito con Eddie Taylor che si presenta a Blues Fires con un CD intitolato Bad Boy with Vera Taylor and the West Side All Stars Band, un bel CD dal quale noi ci potremo ascoltare un pezzo veramente particolare e interessante intitolato 3 o'clock in the morning. Buon ascolto quindi con il primo pezzo di questa puntata che ci offre Eddie Taylor. Behind. is my last goodbye. Bene, questa era la musica di Eddie Taylor, musicista che nacque nel 23 nel Mississippi e che è morto a Chicago nel 1985, uno dei musicisti che portò, confermò il blues elettrico un po' in tutti gli Stati Uniti con grande successo. Eddie Taylor ce lo siamo ascoltati attraverso la pubblicazione discografica Bad Boy with Vera Taylor and the West Side All Star Band, e il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato 3 o'clock in the Morning, un'atmosfera che ci ha riportato in quegli anni particolari in cui appunto il blues elettrico cominciava a prendere piede e a sostituire la grande tradizione acustica dell'antico blues. E adesso, dopo il grande Eddie Taylor, torniamo ai giorni nostri con una pubblicazione del 2013 di Head and Sawyers, che pubblicò appunto 2 anni fa questo CD intitolato Rolling Soul, molto interessante, una bella voce, belli arrangiamenti, e da questo CD noi ci ascolteremo Alone with the Blues. Buon ascolto con Head and Sawyers. Ain't looking out the window, don't care if the sun shines. Ain't stepping out the back door, done have plenty moon. Alone alone with the blues, cause when you ain't got nothing you ain't got nothing to lose. When you told me you were leaving, I thought you meant you was coming back. Now I see that you were lying, I was denying. New man come to take my slack. Now I'm alone, alone with the blues, but that's alright, cause when you ain't got nothing, you ain't got nothing to lose. Thank you. but you're true. Anybody don't believe could ever look at you, baby. Thinking I could hold you mean I got a whole lot of thinking to do. Thinking I could keep you make me a certified fool. Alone with the blues, but that's alright. Cause when you ain't got nothing, you ain't got nothing to lose. When you ain't got nothing, nothing to lose. When you ain't got nothing, you ain't got nothing to lose. Bene, queste erano le atmosfere musicali create da Head and Sawyers. Rolling Soul è il titolo del CD pubblicato nel 2013 dal quale noi ci siamo ascoltati, Alone with the Blues. E come avete sentito, bella, interessante, molto intensa la voce di questo vocalist, nello stesso tempo con una pregnanza espressiva particolare, belli anche gli assoli di chitarra, bella l'atmosfera, sicuramente coinvolgente, molto coinvolgente, e belli gli arrangiamenti, la felice combinazione di energia tra la musica e la particolarità pastosa di questa voce grave di Head and Sawyers. Dopo questo bravo artista andiamoci ad ascoltare la Heritage Blues Orchestra, molto poco conosciuta qui da noi, ma che ha un certo seguito negli Stati Uniti. And Still I Rise è il titolo del progetto discografico dal quale io ho selezionato per voi Catfish Blues, Heritage Blues Orchestra. Buon ascolto. I was a catfish, swimming in the deep blue sea. I'd have so many women fishing at the beach. If I was a catfish and your belly was a pond, down to the bottom and make myself at home, at home. You tell me I can get it, but you keep on snapping back. Sometimes I believe you got any rubber in your back. Hit it, tell me I can get it. If it takes me all night long, leave so early in the morning, baby, your real man never know. You'll never know. Like the catfish, like the catfish told the whale. He said you can move your belly, baby, but honey, please don't move your tail. He said, hold it right there. Mountain, Diamond Road, Diamond Road. Bene, questa era l'energia dell'orchestra che si chiama Heritage Blues Orchestra. Il titolo del CD era And Still I Rise. Il pezzo che ho selezionato per voi intitolato Catfish Blues, un gruppo che mantiene l'istanza proprio dell'orchestra, la compiutezza, la risolutezza della complessità strumentale dell'orchestra, e nello stesso tempo mantiene anche una forza, una grinta, un'espressività che a volte nelle orchestre si perde un po' e si evidenzia soprattutto nei gruppi un pochettino più ristretti. Quindi una via di mezzo gradevole e interessante. Bella, pastosa la voce del leader, del cantante, che sicuramente è ben sostenuta da questa energia vitale di tutto l'ensemble dell'orchestra. Heritage Blues Orchestra, And Still I Rise, questo era il titolo del CD, Catfish Blues, il pezzo che ci siamo ascoltati. Adesso proseguiamo con Hubert Sumlin. Il pezzo che io ho scelto per voi si intitola I Could Be You, tratto dal CD Blues Guitar Boss, Hubert Sumlin. Buon ascolto. Baby, I'ma put you down tonight, sugar. Put you down, baby. I'ma put you down tonight. I caught you with old John. Hey, you do me right. I tell you what I'ma do, baby, before I let you down. I'ma let you know what I'ma do, woman, before I put you down, baby. Cause I caught you with old John. Hey, I don't play. I'ma put you down, baby, for a little while too. I'ma put you down, baby, just for a little while. I'ma put you down, baby, because you ain't doing me right. Tonight. Bene, questo era Hubert Sumlin, un artista che sta andando un po' nel dimenticatoio. Era nato nel 31, morto nel 2011, era nato nel Mississippi come tanti musicisti blues. Prima vi ho proposto Eddie Taylor, che anche lui era nato nel Mississippi, anche di lui si stanno perdendo un po' di tracce. Invece è importante tenere viva la memoria di questi musicisti scomparsi da poco, che hanno comunque vissuto tutta la vita all'interno del blues, dando il massimo con grande amore, con grande passione. Non sono arrivati al top del top così come altri, però sicuramente hanno lasciato il segno e meritano di essere ricordati, specialmente in trasmissioni come queste. Blues Guitar Boss era il CD dal quale noi ci siamo ascoltati, I Could Be You, Hubert Sumlin. E adesso andiamo avanti con un musicista europeo molto valido, molto interessante, che riesce sempre a imprimere grande energia ai suoi pezzi e riesce a coinvolgere il pubblico durante i suoi concerti. Howlin' Bill. Howlin' Bill nel 2006 ha realizzato questo CD intitolato Strike, dal quale noi ci ascolteremo Remember the Day. Howlin' Bill, buon ascolto. Thank you. questo era Howlin' Bill, il musicista belga, veramente molto interessante, molto forte, sempre incisivo nelle sue interpretazioni, che dal CD Strike pubblicato nel 2006 ci ha fatto ascoltare Remember the Day. Howlin' Bill, ho sempre avuto il piacere di presentarlo e di promuoverlo nei miei programmi già dagli inizi delle mie trasmissioni, e rinnovo sempre questo piacere attraverso le sue varie pubblicazioni discografiche, proprio perché è un musicista che ha una certa carica, una certa forza, e vive con questa sua band un rapporto di estrema complicità che si avverte in ogni traccia di ogni CD. Dopo Howlin' Bill dal CD Strike è il momento di Little Toby Walker. Little Toby Walker, artista del quale noi ci ascolteremo un pezzo intitolato She's 19 Years Old, tratto dal CD Shake Shake Mama, Little Toby Walker. Buon ascolto. Tell your mama, I don't care how you feel, you're gonna lose yourself a real fine deal. 'Cause she's 19 years old, she got ways of a baby child. No matter what I do, I just can't keep you satisfied. I'm gonna tell you again, mama, I don't care if you get mad, you're gonna lose the best thing that you have ever had. Because you're 19 years old, she got ways of a baby child. No matter what I do, I just can't keep you satisfied. You're 19 years old, and you got ways of a baby child. No matter what I do, oh man, I just can't keep you satisfied. Grande chitarrista e un validissimo vocalist, compositore, si tratta di Little Toby Walker, un musicista di grande esperienza, bluesman ma non solo, spazia anche nell'ambito cantautoriale folk americano, e riesce a far vivere delle belle emozioni con il suo tocco chitarristico old school, veramente molto intenso e molto valido. La sua partecipazione vocale è sempre molto forte, riesce sempre a coinvolgere con la sua espressività. Little Toby Walker l'abbiamo ascoltato in She's 19 Years Old, tratto dal CD Shake Shake Mama. E adesso il blues italiano che vi avevo accennato. Si tratta di uno dei nomi di maggior spicco a livello nazionale, il chitarrista e vocalist Nick Beccattini, che potremo ascoltare in un prezioso live. Si tratta di un live allo Sputnik Blues Festival del 2014 a Castelmaggiore, in provincia di Bologna. Il pezzo che noi ascolteremo è intitolato Gotta Pay My Bill, e insieme a Nick Beccattini, come ho detto prima, alla chitarra e alla voce, abbiamo Enrico Cecconi alla batteria, Pee Wee Durante all'organo Hammond e Daniele Nesi al basso. Buon ascolto quindi con la Nick Beccattini Band. Friends, all I had is gone. Somebody told me, yeah, look what have you done. So I had to wait for. Doctor, no, I got to pay my bill. I don't need a preacher, Lord knows, just to preach for me. Nobody lay my hand now, now, now, now. Preacher for me. Don't need a doctor, no, no. I got to pay my bill. Thank you. Don't need a pistol just to kill a man. I'm sorry, baby. Last night is my last night, baby. Waiting for the train. Waiting for the motherfucking train. So how to wait for? Oh yeah, right there, baby, on the track. Who's never come? Who's never come? Oh, I got no friend, nah, nah, nah, nah, nah. I got to pay my bill. Bene, questo era il conosciuto Nick Beccattini, che non delude mai, sicuramente un artista interessante con un valore aggiunto che è quello della voglia di migliorarsi sempre, non è mai sempre uguale a se stesso. Io tutte le volte che lo ascolto avverto sempre la sua volontà di ritoccare qualcosa per migliorarsi e per aggiungere sempre un nuovo valore al suo lavoro artistico. Per essere ancora più concreto, per esempio, mi rivolgo al fattore vocale. Sicuramente Nick Beccattini in questi ultimi anni ha impreziosito le sue performance vocali, le sue performance chitarristiche sono sempre ad altissimo livello, ma io ho trovato le sue performance vocali sempre più preziose, più interessanti, vissute con sempre maggiore coscienza anche dei valori espressivi e delle modulazioni, che sicuramente si sono impreziosite sempre più appunto in questi ultimi periodi. Un artista che stasera abbiamo ascoltato in un live che è stato vissuto nel 2014 allo Sputnik Blues Festival a Castelmaggiore in provincia di Bologna, e che vedeva Nick Beccattini con la sua band, quindi con Enrico Cecconi alla batteria, Piwi Durante all'organo Hammond e Daniele Nesi al basso. Il pezzo che ci siamo ascoltati era Gotta Pay My Bill. Il leader Nick Beccattini l'abbiamo potuto ascoltare anche in un bellissimo e lungo assolo chitarristico, oltre all'appena citata performance vocale di notevole spessore. Andiamo avanti adesso, dopo Nick Beccattini, con un grande a livello internazionale, uno dei musicisti blues più prestigiosi, più celebrati a livello internazionale, Charlie Musselwhite. Il CD in questione Ace of Harp, pubblicato dalla Alligator, una delle più importanti case discografiche di blues internazionali, dal quale io ho selezionato per voi She May Be Your Woman. Buon ascolto quindi con Charlie Musselwhite. woman comes to see me every now and then. She may be your woman, but your woman comes to see me every now and then. You know when she comes rolling in around 3 o'clock in the morning, you can only wonder where has your woman been. She's been with me, that's where she's been. Hello, baby. Mama just had to call you up on the telephone. Just had to call you up on the telephone. Thinking about you all the time. Woman, I just can't wait to get you all alone. We'll be right back. see me sometime. She may be your woman, but your woman sure comes to see me sometime. You know when she's at home, sitting there looking right at you, my good loving's what's on your woman's mind. Yeah, if you happen to see me coming, better keep your woman right by your side. Yeah, if you happen to see me coming, better keep your woman by your side. I tell you why. 'Cause if your woman flag my train, I sure gotta let your woman ride. Bene, e questa era la musica del grande Charlie Musselwhite White, come sempre la sua straordinaria naturalezza, la sua spontaneità, la sua grinta nello stesso tempo. Ace of Harp, il CD pubblicato dalla Alligator, dal quale noi ci siamo ascoltati She May Be Your Woman, un pezzo che evidenzia le sue doti di armonicista soprattutto, ma anche di vocalist, Charlie Musselwhite. White. E adesso l'ultimo pezzo della la serata. Si tratta di un gruppo poco conosciuto che si chiama Indigenous e nel 2013 hanno realizzato un CD intitolato Vanishing Americans, dal quale noi ascolteremo Cold Hearted Woman. Buon ascolto con Indigenous. All my mind. Il suono pastoso, la grande energia, gli straordinari assoli che ci hanno offerto gli Indigenous da questo CD intitolato Vanishing Americans, pubblicato nel 2013, dal quale noi ci siamo ascoltati. Cold Hearted Woman, un gruppo che va tenuto d'occhio, veramente molto interessante, Indigenous. E con questo pezzo si chiude anche la puntata numero 68 di Blues Fires. L'appuntamento è come sempre a martedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Blues Fires.